vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 3 di Ratto di Campagna Topolino di Città, il programma di Radio Big World che tenta di esplorare e di capire la differenza che c'è tra chi vive in mezzo ai campi e in mezzo ai trattori e chi invece vive nei palazzoni cittadini circondato da traffici e da tranvie nel caso di Firenze. Il ratto di campagna, quello zozzo, peloso, brutto, sono io che vengo dal contado, mentre il topolino di città, quello bellino, quello pulito, quello che anche nei laboratori gli danno tante carezzine, è Laura! Ciao carissimo ratto di campagna, qui in città tutto bene, da te? Beh, insomma, ora si sta pensando già alla semina e c'è qualcuno che già si lamenta. Se non ci si lamenta del tempo in campagna, ma dove lo si farebbe? Ma certo, non vi potete lamentare del traffico e quindi a ognuno le sue. E proprio di traffico, oggi cercheremo di parlare non solo di traffico, perché ora tocca di capire e di imparare come ci si muove in città con mezzi di trasporto privati, e mezzo di trasporto privato a Firenze particolarmente non significa solo auto, ma dalle auto cominciamo. E la prima gigantesca domanda che viene da fare per un campagnolo a qualcuno di città è il parcheggio. In particolare, se è vera la leggenda che spesso chi torna a casa e vive in zone particolarmente centrali o particolarmente fitte di case, spesso ha da passare almeno una mezz'ora nel girare intorno prima di trovare parcheggio. Laura. Dice sia vero. Io ho la fortuna di avere il garage e quindi sono una privilegiata. Però conosco fiorentini che girano sì, anche mezz'ora prima di trovare posto sotto casa, che poi non è mai sotto casa, ma un po' più là, un po' più giù, un po' più su. E infatti che succede molto spesso? Quando due amici devono uscire, chi la piglia la macchina? Ah, io non la piglio. E l'altro no, neanche io. O se no, la classica risposta, io non la piglio, non la posso spostare perché poi c'ho la pulizia della strada, nella strada accanto, quindi... Non solo è difficile spesso trovare parcheggio, ma bisogna anche tenere conto della fatidica pulizia della strada. Uh-huh. E quindi bisogna stare attenti anche a questo. E però, vabbè, non mi riguarda questo problema, fortunatamente. Però vabbè, ci sono anche degli escamotage, nel senso, ognuno poi conosce la sua zona, sa magari dove metterla, sa dove c'è più posto. E il fiorentino molto spesso non si fa molti problemi a parcheggiare un po' fuori dalle strisce, oppure in un posto che è molto vicino ad un cancello. Cioè voi, avendo molta facilità a trovare il parcheggio, volete trovare il parcheggio in assoluto più sicuro, più tranquillo, dove sia ineccepibile, no? Per mettere la macchina. Chiaro. E invece noi la mettiamo magari un po' troppo attaccata a quella davanti, un pochino troppo vicino al passo carrabile, magari in mezzo sul marciapiede, perché diciamo, vabbè, questo c'è e questo prendiamo, ecco. Quindi la difficoltà nel trovare parcheggio si traduce anche in un parcheggio più selvaggio. Pensate! Se c'è uno di campagna che accanto a te ti dice, ma come, ma parcheggi qui? Ma no, ma no, cioè, cosa fuori dal mondo magari per lui, invece per il fiorentino, ma va bene, ma sì, la lascia un po' così. Per cominciare, se da noi qualcuno domanda chi prende la macchina, la risposta è io, perché praticamente c'è gente che fa anche 200 metri per andare da casa al bar o per andare a casa al suo posto di ritrovo con gli amici e generalmente si prende la macchina. Ecco, se aveste problemi di parcheggio, insomma, non sarebbe così. Inoltre, in una regione della Toscana, un po' più a sud di Firenze, chiamiamola la Vandea della Toscana, lì per esempio, che è quella regione dove ci sono le case di bozze, lì il garage è un elemento importante e fondamentale dell'abitazione, tanto che è quasi un segno di vanto dire: ah, io c'ho la casa con il garage. Anche a Firenze allora è così? Eh sì, te l'ho detto, vista la scarsità di parcheggio. Che poi, ecco, voi che avete quasi tutti il garage, lasciare per voi, lasciare la macchina fuori è sempre un rischio, o diciamo forse un pensiero in più, ecco, oddio, ho lasciato la macchina fuori, ma no, ce la ritroverò domattina, oppure sarà graffiata, oppure mi bucheranno le ruote. Ecco, invece per noi è normale. Laura, un'altra domanda a questo punto relativa alle auto, e in particolare a come si prende l'auto. Per esempio, da noi in provincia è praticamente obbligatorio, quasi per chiunque ha 18 anni, anzi qualche mese prima di finire i 18 anni, iscriversi alla scuola guida per imparare a guidare, perché effettivamente l'auto in provincia è spesso utile per gli spostamenti. E il prendere la patente in provincia significa che spesso gli istruttori ci portano in zone vuote, in zone dove c'è meno traffico, in grossissimi parcheggi deserti, tipo quello dietro allo stadio, e lì si fanno le nostre pratiche. Ma in città, che c'è autobus e macchine, SUV e traffico e semafori dappertutto, sensi unici, lavori, come fate voi a prendere la patente? Carissimo, ma su questo siamo abbastanza simili, perché anche a Firenze non mancano parcheggi, zone tranquille, strade senza uscita, il classico vialone del Galluzzo, insomma, è proprio il posto dove tutti vanno a fare un po' di pratica, almeno insomma quelli della mia zona. Vabbè, è normale, no? Si comincia da queste zone semideserte. E poi ecco, quando ti ritrovi nel traffico, sì, sinceramente la differenza la vedi. Però che succede? Che noi, fortunatamente o sfortunatamente, siamo abituati a viverlo questo traffico, perché quasi tutti noi abbiamo avuto il motorino, e da lì l'esperienza, insomma, almeno a me è servito tanto aver viaggiato in motorino e aver avuto quindi un assaggio del traffico cittadino prima di prendere la patente. E così, dai, diciamo che non la noto tutta questa grande differenza. Hai detto una parola che a Firenze è sulla bocca di tutti, e in particolare sotto agli occhi di tutti, perché grande parte del traffico cittadino fiorentino sono proprio i motorini. E è una caratteristica che persino chi viene da altre grandi città ma non è di Firenze, quando viene a Firenze nota, e lo nota in maniera marcata, dato che si nota, i motorini noi entrano e escono dappertutto, di fronte, dietro, sotto. Come funziona sta cosa dei motorini, visto che anche tu ne fai uso e ne hai fatto uso più da ragazza? Allora, sì, ti sbucano un po' ovunque, tanto che molti che non sono fiorentini dicono: ma non si può sorpassare da questa parte? Io dico: vabbè, c'è il motorino, ma che c'entra? Ma il motorino non è soggetto al codice della strada. Ma no, cioè alla fine c'è una regola non scritta, che tu quando hai il motorino ti infili in qualunque spazio vuoto trovi, quindi fra due macchine, fra la macchina e il marciapiede, fra un autobus e il marciapiede, sul marciapiede stesso a volte. Ora lo so, insomma, se qualcuno mi sente, vuole eccepire, mi vuole fare la multa per queste mie dichiarazioni, faccia pure. Però ecco, il motorino è parte integrante della vita fiorentina, la maggior parte dei fiorentini ce l'ha. Che cosa distingue? Vediamo se lo sai, un motorino di città da un motorino di campagna. Ma quelli di campagna, che ne so, c'hanno la cassetta di legno dietro imbullettata, oppure c'hanno le sporte della verdura nel predellino davanti. Qual è la differenza con quelli no, di città? Ma no, dai. Allora, la differenza fondamentale è il parabrezza. Perché? Perché in campagna voi non ce l'avete, pur avendone bisogno, dimmi la verità. Allora, tu vedi queste distese di motorini a Firenze parcheggiate. Allora, innanzitutto, vabbè, ti fanno impressione quando sei in mezzo al traffico e ti sbucano ovunque, però anche quando sono parcheggiate molto spesso fanno impressione, perché c'è una fila immensa di motorini, e il 99% di questi è al parabrezza. anche d'estate, perché molti non lo tolgono, fanno prima a lasciarlo tutto l'anno. Ecco, una mia amica venne sconvolta, lei abitava in paese, e mi disse: ma che cosa avete, il parabrezza al motorino? E io: certo, le ho detto, fa freddo. Ma come mai, da vecchi? Ecco, questa fu la sua osservazione, perché in effetti in paese ce la può avere qualche persona anziana, e il giovane non ce l'ha, perché il motorino è per voi qualcosa in più che serve per divertirsi, per fare magari un'impennata, per... E invece per noi è proprio un mezzo di trasporto fondamentale, quindi deve avere tutte le comodità possibili. Da vecchi o non da vecchi, il parabrezza serve, perché l'inverno è freddo. E non solo il parabrezza, molto spesso vedi anche il tucano. Sai che cos'è il tucano? No, che cos'è? Un uccello tropicale! Il tucano urbano è una specie di paragambe, una specie di copertina che appunto ti metti dalle ginocchia in giù e ti tiene caldo durante l'inverno, e quindi praticamente sei a posto, se puoi usare il motorino con qualsiasi condizione atmosferica. Perché tornando al traffico di cui dicevamo prima e di cui abbiamo parlato anche la puntata scorsa, il motorino ti permette di evitarlo. E quindi pioggia, neve, vento, e il fiorentino, se deve passare per certe strade, va in motorino, e così è. E infatti, non a caso, ho letto da qualche parte che Firenze è anche proprio per la sua conformazione, come è fatta proprio la città, per il suo maledetto traffico, è la città con la maggior percentuale di motorini rispetto agli abitanti in Europa addirittura. Ecco, lessi questa statistica tempo fa, non so se è sempre valida, però insomma, così occhio e croce ci sta. Figurati te! E quindi a Firenze c'è un sacco di gente che va col tucano sulla spalla come se fosse il pirata Morgan, e e praticamente il motorino è il cavallo dei fiorentini, e ognuno più o meno ce ne ha uno. Esatto, ma poi non è neanche tanto geloso del proprio motorino il fiorentino, nel senso che un'altra cosa che ho notato è che noi fiorentini, se camminiamo per strada e ci vogliamo un attimo sedere o vogliamo un attimo appoggiare una borsa, se vediamo un motorino parcheggiato ci sediamo un attimo sopra, appoggiamo, insomma, quasi fosse un po' di tutti. E invece, sempre una mia famosa amica che veniva da campagna, fa: ma che te fai, che ti siedi su questo motorino? Ma se arriva il proprietario, beh, se arriva il proprietario mi alzo, qual è il problema? Questo è un approccio cittadino, senz'altro. Qui da noi ti danno una forconata se ti vedono seduto sui loro motorini. Non lo so, sono stata fortunata io, insomma, comunque mi sembra questa la filosofia, perché poi è un mezzo di trasporto anche come la macchina, no? Se devi lasciarla fuori, alla fine sì, ci sei affezionata, ma insomma non più di tanto, mentre invece voi, ecco, se vedete un graffio alla macchina, subito dal carrozziere. Subito dal carrozziere, poi preferite quasi quasi, non lo so, che qualcuno vi tocchi la mamma anziché la macchina, forse. Sì, è probabile. La macchina, insomma, per l'uomo medio di periferia è importante. È vero. E i motorini a Firenze vengono utilizzati, a parte le caratteristiche sociologiche e antropologiche proprie della città, proprie di quella città, i motorini vengono anche utilizzati per evitare il traffico e per evitare gli ingorghi, che da noi sì ci sono all'ora di punta, quando la gente torna via dai campi o va via dalle botteghe artigiane, sì, effettivamente ci sono degli imbottigliamenti tipo sui ponti, ma è roba da ridere rispetto alla quantità enorme di auto, camion, bus e quant'altri mezzi circolino in Firenze, che passa mediamente in una mezz'ora, in particolare nell'ora di punta, nelle zone più densamente trafficate. Come, Laura, si sopravvive agli ingorghi? Ecco, il motorino, te l'ho detto, alla fine il motorino trova sempre uno spazio in cui infilarsi e via. La macchina, se ti trovi con la macchina, che devi fare? Sopravvivi, aspetti, ti lamenti, imprechi, magari telefoni a qualcuno, che insomma non si potrebbe in macchina, anzi questo è un problema, dicono che adesso non si può più nemmeno usare il telefonino se sei fermo. In macchina sì, vabbè, si sapeva, non si può usare, è pericolosissimo, però insomma se uno è fermo proprio in un ingorgo che non va neanche a due all'ora, insomma magari uno per sfogarsi, per ammazzare il tempo, una telefonata la fa volentieri, dice non si possa più neanche questo, quindi siamo finiti, dai, speriamo... Speriamo bene con questa tranvia che presto dicono funzionerà. Speriamo si riducano gli ingorghi, dai, o se no il vecchio caro motorino. Te pensa che mio babbo, anzi, andava anche in bicicletta con l'ombrello quando pioveva, perché non voleva prendere né macchina né autobus. Quando andava al lavoro spesso andava in bicicletta con l'ombrello, insomma, quindi magari se uno si ingegna in modo per evitare il traffico lo trova. E Laura, in questa equazione dove le strade sono pienissime di auto e motorini, i marciapiedi sono spesso pieni di motorini o parcheggiati o perché quelli tentano di saltare qualche coda o qualche macchina che è ferma, i pedoni come vivono a Firenze? Cosa fanno a Firenze? Sono circondati! Ma no, Daura, non esageriamo, i marciapiedi sono per i pedoni, su. Su via, non esageriamo. Spesso il pedone va più veloce che la macchina, quindi chi ha buone gambe, buoni muscoli, insomma, anche a me piace andare a piedi, perché si fa prima molto spesso, è tutta salute. Beh, certo, ci sono delle zone in cui puoi andare a piedi, altre no, quindi... Vabbè, è sempre il mio mezzo di trasporto preferito, la cara vecchia camminata. E l'ultima domanda che ti faccio, relativa al trasporto privato, anche se molte altre ce ne sarebbero da fare e cercheremo di trattare questi temi nelle prossime puntate, sono i vigili e le multe, il parcheggio selvaggio, la doppia fila, la macchina vicino alle strisce o davanti al cancello. Come ci si regola con i vigili fiorentini? Allora, ci si regola che il fiorentino ha sempre ragione, quindi anche se ha messo la macchina male o se l'ha messa su un passo carrabile, insomma, vuole far valere le sue ragioni, ci prova, ecco, dice, ma che, dai, l'ho messa un attimo, oppure, ma dove la potevo mettere? Non c'era un posto, via, ci si prova sempre a farsi togliere la multa, ma spesso il vigile è cattivissimo, cioè, non ci ascolta, fa il suo mestiere e va per la sua strada. Guarda, quando io parcheggio, che poi, ti dico la verità, spesso non so se io parcheggio dove posso, dove non posso, e quindi dico vabbè, io la lascio qui, poi vediamo che succede. La bella soddisfazione è tornare alla macchina e vedere che non hai multe. Allora, ecco, la giornata ti sorride se sei riuscito in un'impresa come questa di non avere multe. Allora sei molto felice. Quindi coi vigili e con le multe o con il rischio di prenderle, a Firenze ci si convive, esatto. Si conclude qui anche questa puntata del Ratto di Campagna e del Topolino di Città. Ringraziamo naturalmente Laura, che tra i mille suoi impegni di cittadina, andare a prendere il tè in saletta, fare un'impennata con il motorino e con il tucano, oppure stare bloccata con la macchina rischiando una multa, la ringraziamo per le preziosissime informazioni. Grazie Laura. Grazie a te, alla prossima. Naturalmente ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino ad ora, e adesso sapete che quando andate a Firenze e vi parlano di tucano, non vi parlano di un uccello dei tropici.